Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago. Il mondo è bambino dappertutto, non solo qui nel nostro asilo, ma anche nella sterminata Russia. No, sterminata non è la Russia, sterminata è la Cecenia, Drago, dai. Ma sì, ma non nel senso di molto estesa. Ho capito, dai, capito. No, vabbè, mica ricevere una lettera piena di rogna dall'ambasciatore russo. Guarda come fanno queste cose. Sì, c'è l'ambasciatore russo. Eh, certo. Vabbè, ma tu me le porgi su un piatto da... Vabbè, dai, allora. Non ti ho anche detto che piatto il era? Piatto è sempre d'argento. Il piatto d'argento. Va bene, di bronzo andava bene lo stesso. Allora, il bambino Putin ha deciso di puntare tutto sui bambini per i prossimi anni. Illustrando il piano quinquennale, Putin ha invitato i russi a fare più figli. Ma il piano quinquennale è roba da Stalin. Infatti, mi sono sbagliato. Anche Brezhnev, però mi sono sbagliato. Putin ha parlato comunque per l'ultima volta alla Duma prima delle elezioni di dicembre e ha fatto un discorso molto importante, enunciando le linee guida per la Russia del futuro, proprio come un piano quinquennale. La cosa su cui conta di più Putin è l'incremento demografico. Vuole più bambini per rendere più grande la Russia. Quindi la Russia si prepara a diventare il più grande asilo del mondo. Vabbè, capito? Però per far nascere i bambini non è che basta Putin che parla, ci va tutta una pratica. La pratica, lui ha promesso $9,200 per ogni figlio nato a 9 mesi dal suo discorso, e quindi credo che come afrodisiaco possa funzionare. 9,200?